Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È il primo volume di una nuova settimana di Eclettica da passare insieme. La voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni e vi devo dire che sono molto contento di aver ricevuto i vostri mail a giulio@radiorockfm.com. Alcuni di questi, le parole di alcuni di questi saranno parte della trasmissione di questa settimana di tanto in tanto. Risentirete le vostre parole con la mia voce. Dall'alto dei gradini della stazione Saint-Charles, Guitou, come lo chiamava ancora sua madre, contemplava Marsiglia, la grande città. Sua madre c'era nata, ma non gliel'aveva mai fatta vedere, malgrado le promesse. Adesso era lì, solo, come un adulto. E tra due ore avrebbe rivisto Naima. Per questo era venuto. Con le mani infilate nelle tasche dei jeans e una camel tra le labbra, scese lentamente la scalinata, di fronte alla città. «In fondo alle scale», gli aveva detto Naima, «trovi il boulevard d'Athen. Lo segui fino alla Canabière, giri a destra, verso il Vieux-Port. Ancora a destra, dopo 200 metri, vedrai un grande bar all'angolo, la Samaritaine. Ci incontriamo lì, alle 6. Non puoi sbagliarti». Le due ore che aveva davanti lo rassicuravano. Poteva trovare il bar, essere puntuale. Non voleva far aspettare Naima. Era ansioso di rivederla, di prenderla per mano, di stringerla tra le braccia, di baciarla. Quella sera avrebbero dormito insieme, per la prima volta. La prima volta, per lei e per lui. Mathias, un compagno di liceo di Naima, gli prestava il monolocale. Sarebbero stati soli, loro due. Finalmente. Questo era l'incipit di Ciurmo, il cuore di Marsiglia, di Jean-Claude Issaut. Efforts to find out whose selfish crime against the environment caused our entrapment have been fruitless. Until moments ago! Un inizio tutto britannico, quello di Eclettica di quest'oggi. Infatti abbiamo aperto con gli autoprodotti Misophone, uno dei punti fermi di Eclettica in questo periodo, con The Sea Has Spoken, per poi passare ad un estratto da quello che è il primo album di lunga durata, anche se noi li teniamo sott'occhio da qualche mese a questa parte, degli I Was a Cub Scout. Pink Squares è il titolo del pezzo che si è appena chiuso, per passare invece ai British Sea Power con un nuovo album il cui titolo non dovrebbe avere risposte strane, perlomeno su questa radio. Do You Like Rock Music? Questo è il titolo del nuovo dei British Sea Power, disco che era stato anticipato anche con un 7 pollici in vinile del brano che sto per farvi ascoltare, ovvero sia Waving Flags. La sua vita era laggiù, a Marsiglia, laggiù, dietro quelle montagne che stasera il sole al tramonto colorava di un rosso vivo. Domani ci sarà vento, pensò Babette. Da quando, 15 giorni prima, era arrivata a Le Castellà, un villaggio delle Cévennes, alla fine della giornata saliva sul crinale, percorrendo il sentiero dove Bruno portava le capre. Qui, aveva pensato il mattino del suo arrivo, nulla cambia, tutto muore e rinasce, anche se ci sono più villaggi morenti che vivi. Sempre, prima o poi, un uomo reinventa i gesti più antichi e tutto ricomincia. I sentieri, coperti dalla sterpaglia, ritrovano la loro ragione di esistere. Questo era l'incipit di Solea di Jean-Claude Izzo. Don't even know where we live. Kill, kill, kill. No!